Un saluto a tutti da parte di Max Macchia per 451 frammenti sonori, tornati in diretta. Tra l'altro, francamente, non sappiamo neanche quanto, probabilmente, insomma, le prossime, così le troverete su 451frammentisonori.noblogs.org, curato tra l'altro, nato, ecco, potremmo dire. Con l'aiuto di Lorenzo Albano, anzi nato per lui, ecco, nato per lui nel senso che l'ha fatto lui. Così è un modo anche di salutare, insomma, Lorenzo Albano, appunto. 451 frammenti sonori, serata particolare, ma d'altronde da qualche mese, come dire, e che non usciamo da questa particolarità, la chiamiamo così, si potrebbe chiamare in tanti modi, tant'è che insomma le cose stanno così, come diceva Salvatore Titolo, che tra l'altro saluto, trasmissione che c'è prima di 451 frammenti sonori, trasmissione decisamente bella e viaggiante, quantomeno rispetto appunto a varie latitudini e musiche, insomma, dal mondo. Probabilmente non ci facciamo, anzi sicuramente, abbattere dal virus, ma insomma, restrizioni e coprifuoco probabilmente ci impediranno appunto di trasmettere in diretta, tant'è che appunto le cose stanno così. Poi si potrebbero aprire mille, forse per certi versi anche il caso, sarebbe il caso di aprirli, ma non lo faremo stasera. È chiaro che qua il problema sta diventando sempre più forte, in termini appunto poi sociali e non soltanto appunto sanitari, ma anche questo si sapeva per molti aspetti, appunto si sta aggravando una situazione che appunto già prima, pre-pandemica, insomma, era sull'orlo appunto del precipizio. È chiaro che poi appunto i precipizi, come dire, vengono poi i primi, insomma, a essere sacrificati, ecco, su questo sorta di rupo impossibile. Chiaramente, insomma, le classi più basse, ma tant'è, insomma, anche questo, no? E faccenda che oramai si naturalizza il sistema economico come se fosse appunto organismo vivente, sta male, lo facciamo stare meglio, insomma, sembra che, insomma, dobbiamo curare appunto il sistema economico capitalistico, casomai qualcuno, insomma, se lo scorda, dal Covid, insomma, curiamo quindi il sistema economico dal Covid, curiamo il capitalismo, insomma, dal Covid, magari poi qualcheduno ne approfitta per fare una bella ristrutturazione, che quella ogni 10 anni, come diceva quello lì, e con la barba, quel vecchietto lì con la barba, il barbone, insomma, di 150 anni fa, appunto, no? Poi le crisi prendono prima forma di ristrutturazione capitalistica, anche questo, insomma. E così, insomma, curiamo l'economia, così, ecco. I signori stanno sempre meglio, chi invece non è signore sta sempre peggio. 451 frammenti sonori che questa sera riaccende i motori, Motoric 3, riprendiamo, insomma, le motorizzazioni, musiche che partono, insomma, da quelle che sono i grandi riferimenti di certo kraut rock degli anni 70, passando poi per forme, se vogliamo, anche di afrofuturismo, tecnoidi, quindi poi per arrivare anche a dilatazioni tra post rock e forme appunto di elettronica che prende soprattutto le maglie di un suono che appunto partirebbe per certi versi insomma dal classico power rock, per poi appunto aprirsi come già appunto la nascita delle prime forme di motoric sound con noi soprattutto, diventa poi anche musica free nel termine veramente più largo, se la struttura di partenza potrebbe essere rock, poi l'improvvisazione, quelle che sono musiche che diventeranno poi fondamentali per molto industrial, per molto post punk, legato appunto a forme decisamente cinetiche della trasformazione appunto sonora e della composizione stessa. Trattando appunto anche forme quasi orchestrali, anzi per molti versi Ari Benjamin Meyers con Symphony X, con tra l'altro una partecipazione di Max Loderbauer, Sun Electric, quindi le prime forme di techno inglese, techno ambient, e poi tanti progetti, fino ad arrivare anche a Vladislav Delay, che questa sera poteva esserci dentro il progetto allargato di Vladislav Delay, quindi il quintetto o il quartetto che questa sera poteva esserci dentro, magari appunto sarà nel prossimo 451 frammenti sonori in diretta, e così insomma ci diamo un ponte che parte da questo momento, anche una sorta appunto anche questo, se vogliamo, per molti aspetti di motoric che vogliamo far partire veramente insomma il cuore e non solo, anche i nervi e la macchina biologica, biomeccanica poi per certi aspetti, se non addirittura bioelettrica, con forme anche forme quasi cyborg, elementi appunto che vanno a motorizzare, che motorizzeranno appunto questo 451 motoric. Ari Benjamin Symphony X insieme appunto a Max Loderbauer, poi appunto la Redux Orchestra, anche questa magari avremo modo di sentirla in una seconda ora di collegamento appunto a questo motoric, che magari diventerà appunto motoric 4 rispetto a questo terzo, e ci andiamo appunto a sentire con ascendenza anche qua, non prima ho citato soprattutto, ma insomma va da sé che perlomeno i Noi, ecco, come punto di riferimento di un modo di intendere il motoric sound, non possono non essere citati, ma sicuramente c'è anche un dato, potremmo dire, orchestrale massimalista di Glenn Branc, di Rhys Chatham, che sentiamo appunto insieme a Meyers, a Loderbauer, tutta la Redux Orchestra che massimalizza appunto un suono decisamente ossessivo, ma con veramente anche una potenza, potremmo dire, di fuoco per molti versi, di fuoco sonoro, quasi a esperire una forma appunto che da concettuale si fa poi di fatto, si potenzia appunto attraverso un massimalismo dato da elementi che appunto portano una sorta di estremo, se vogliamo, di paradosso, il primo suono appunto da quando è parte, che è la piccola cellula minimalista, che poi appunto diventa massimale, come abbiamo adesso in sottofondo e avrete tra pochissimo a pieno ascolto. We'll be right back. splendido veramente questo pezzo, questo appunto Motorik lanciato, un'orchestra, scusate, che appunto si lancia verso un suono massimale, un suono che poi non perde, anzi, come dire, implementa per molti aspetti il suo aspetto rock, rock noise, ma anche con, tra l'altro, questo lavoro di filigrana in filigrana di Max Loderbauer per quanto riguarda gli electronics, forse più veramente per quanto riguarda la composizione, quindi anche una tessitura, se vogliamo, a maglia più stretta, potremmo dire, o più forte anche per certi pezzi e per certi aspetti anche rispetto a, poi a un lavoro che ha anche momenti tra virgolette distensivi, ma sempre appunto in una chiave quasi motorizzante, ecco, di suono portato appunto a questa sorta di motorizzazione incessante. E quindi anche momenti di pausa, di quasi stasi che si ha verso la fine, sono poi frutto appunto di un'accelerazione che invece si ha durante tutto buona parte, insomma, del percorso di Symphony X. E Max Loderbauer, tra l'altro, qua in compagnia appunto di Redux Ockerstra e di Ari Benjamin Meyers, anche un progetto tra i vari che insomma ha attraversato dagli anni 90 in poi, tra l'altro con Tobias Freund, che viene addirittura da Hypnobeat, da storica formazione, ma anche se non troppo conosciuta, di un modo di intendere, insomma, la dance alternativa legata a forme, insomma, di elettronica IBM, Electronic Body Music, quella di Front 242, Frontline Assembly, Skinny Puppy, eccetera eccetera, vicino per certi aspetti a quello, a forme, insomma, alla Cabaret Voltaire, post-industrial, ma nel vero senso della parola, insomma, spostandosi anche rispetto a quello che è stato uno dei suoni più importanti, insomma, della fine, anzi della metà degli anni 70, quello appunto di nascita industrial con Throbbing Gristle e anche Cabaret Voltaire, appunto. Tobias poi Freund appunto ha trovato e incrociato più di una volta Max Loderbauer, e hanno questo progetto da qualche tempo, un progetto decisamente interessante, vicino a una sorta di ambient, ma di ambient molto molto scura, una sorta appunto di detta ambient molto acustica, dove se con Ari Benjamin Meyers abbiamo trovato appunto l'orchestrazione portata appunto a un suono massimale, e qua è quasi il suono detta ambient, diciamo industrial ambient, noise ambient, insomma, poi lì veramente potremmo andare di definizione in definizione, ma per capire, insomma, in che ambito si muovono appunto i NSI, lo dico, insomma, anagrammando all'italiana, di appunto Loderbauer e Freund, muovendosi quasi su un piano anche non soltanto elettronico, di tessitura elettronica, ma anche addirittura acustico, quindi rispetto a Redux e appunto a Meyer insieme, che muovevano appunto un'orchestrazione verso appunto l'impatto motorizzante, qua invece c'è quasi un impatto, potremmo dire, elettroacustico, nel senso appunto più aperto del termine, appunto, per questo progetto NSI numero 5863, che non è un prefisso telefonico o qualcosa del genere, ma è appunto il titolo di un lavoro di qualche tempo fa, ma neanche tanto, insomma, tempo fa. Ci andiamo appunto a sentire questo questo modo, insomma, di intendere motoric, partendo quasi da insomma, quasi un ossimoro, ovvero da una sorta di ambient che appunto poi diventa motoric nel farsi appunto satura di elementi scuri, che però appunto danno una forma cinetica al suono di NSI. Toric micidiale, quello di The Next Body, è veramente difficile star fermi, insomma, era difficile per il sottoscritto non, come dire, non avere quasi un amplesso col mix in questo momento. Beh, Next che da oltre 20 anni sono tra le più belle realtà in termini di jazz sperimentale, in termini di musiche tanto, tanto delicate quanto possono essere appunto invece dei Motorik veramente implacabili, come appunto in questo Body, pezzo tra l'altro di 56 minuti. Veramente una sorta di bomba sonora che con un carattere metronomico va veramente a impattare verso un suono che diventa seriamente universale, nel senso appunto di cosmicheggiante, partendo appunto dalla terra, poi si espande, una sorta appunto di razzo motorico, se vogliamo, che poi ci fa riflettere anche tra l'altro su quello che è il corpo non soltanto sonoro, anche il corpo fisico, mai così fisici poi in effetti in Ex, come appunto in questo lavoro di qualche mese fa. Per finire, e così concludo con questa diretta per poi mandarvi alla prossima, insomma, speriamo il prima possibile, Andrea Belfi, Strata, lavoro veramente notevole, seriamente notevole da parte di uno che tra l'altro è passato anche da queste parti, in quel di Bologna. Vi lascio appunto con il pezzo omonimo dal bellissimo lavoro appunto di Belfi, e vi rimando appunto al prossimo 451, fermo restando insomma che su 451 frammentisonori.noblogs.org, insomma, potete trovare altre trasmissioni che poi saranno messe dal sottoscritto da altri e poi appunto un saluto, rispetto invece, e quindi un ponte rispetto alla prossima diretta. Ciao da Max Macchia, non ve lo dico io stavolta, evito di dirvi fate i bravi. Andrea Belfi, alla prossima, è sul serio, me lo dico anche un po' come dire, con l'emozione che corre rispetto appunto l'emozione indiretta, ecco, che corre. Ciao da Max Macchia.